metti a buttarti. Ma non per quello, anche perché era invitato anche lui e non ci poteva andare perché c'era l'inaugurazione. E se invece va la sabato, la quasi domenica, ha giusto, boh. E vabbè, ma tutti i dini. Le stazionali sono quasi a 2, 1 e 8 sono, cazzo, allucinante. Ma purtroppo ho l'antenna, perché ho cambiato il rosmetro, ho messo l'altro rosmetro, quello piccolo, il 102, quello chiuso in macchina per regolare stazionale nella macchina, e mi segna la stessa cosa. Però riesci a, diciamo, accordando, riesci a batterle, sì, le porti giù? Sì, accordando sì. Allora usala così, per adesso, poi vedi un po'. Però è strano, cazzo, l'antenna è un bel nuovo. Cosa ce l'hai, un anno? Sì, da meno. Allora, 13 dicembre l'ho piazzato. 13 dicembre, giù lo sapevo uscire. Cazzo, poi è anche una signora antenna, un'antenna seria. Mi hai detto che anche hai fatto un sacco di accorgimenti. È tutta quanta vulcanizzata è passata anche il nastro, ma non passata solo su vulcanizzante, partiti dal tubo, passati su vulcanizzante e uscito sino al tubo, di modo che non abbia modo di entrare acqua né niente. Ermetica proprio, non lo so, qualche scherzo al cavo è impossibile, no? Dove passa il cavo? Il cavo passa davanti al palazzo, dietro il tubiale. Dico, non è accessibile dalla gente, no? No, non penso di... Se no sarebbe andato fuori lo scala se mi avessero fatto scherzi al cavo, perché andava in corto e andava fuori lo scala. Non so, vabbè, quelle antenne sono già in corto, sono cortocircuitate, dai. Sì, ma se rimetti uno spillo dentro te ne va fuori lo scala. Infatti, le stazionali salgono. Non lo so. E io ho provato tutto, cambiarli il cavo, cambiarli anche il rosmetro, ci dico lì si muore l'antenna, c'è poco da fare. O è il cavo dell'antenna, il piede dell'antenna, aspetta. Prova. No, no, aspetta. Adesso non dobbiamo, facciamo passare, guarda, 1 e 1. Prova a muovere, proprio fai il segnale aumentato quando muovevi. Prova a accordare. Guarda. No, prova a fare dei movimenti, destra e sinistra, facendo finta di accordare, per vedere se il segnale si muove. Guarda adesso. Vedi, hai recuperato mezzo Santiago. Da 9 sei passato a 9,5 con l'attenuatore. E quindi le stazionali ci sono, c'è poco da fare. Adesso come attenuato ho risolto, dai, è 1 e 1 adesso. Adesso è... Poi c'è anche i bei picchi di modulazione. Beh, io non capisco cosa gli sia successo. Ecco, premo, adesso va pronto scala. Non si capisce un cacchio. Allora, scusa. Cosa hai toccato adesso? Addirittura sei salito a 9,20, mi. Cosa hai mosso? Il tasto, così, ho fatto così e così. E cosa hai cambiato? Perché aumenta un bel segnale, ma di potenza è. No, è il segnale, è il tasto che ti fa regolare le stazionali, del matchbox. Qual è, quando arrivi più forte, è staccato o attaccato? Allora, così è in on e così è in off. Allora, in off aumenta il segnale di un bel. Perché non è regolato, capito? E come si spiega, arriva più forte quando senza regolarlo, bu? È che adesso cosa sta succedendo? Adesso puoi dire in off, adesso in off. Però che se ne aspetta. Okay. invece no. E risulta con lo stazionario, risulta con 1,5 di stazionario. Capito? 1,5 passato. Non ho capito come mai il segnale ne guadagna, boh. Perché quando tu lo regoli ti ruba il segnale. Capito? Adesso è 1,5 messi. Aspetta che provo con questo. Allora, stato d'accordo. Tu riesci a attenuarmi a me, portarmi, non so, un segnale di 7, boh. Sì, provo. Beh, mi lascio la portante ferma. Dimmi quando posso. No, lasciala. Così è accordato. Così si sente, dai segnale. Così ho 1 e 1,5 di stazionaria, però non sono accordato, cioè ho staccato il pulsantino. Cambia. Prova. Addirittura anche i watt mi si abbassano così. Mi si è sceso oggi. Vedi, quindi questo funziona meglio quando accordo l'antenna. Invece tu è il contrario, bu. Un accordatore anche, bu. Allora, adesso provo, lascio schiacciato un attimo e proviamo qua. Cazzo, qua addirittura va sul 2 se non è accordo. Allora, così è off e 1,5, dai, 2. Così è off, prova on. Così è on, guarda, è accordo. Guarda. E così ce l'avevo a 2. E scendi da 9 a 7, 2 e Santiago perdi. Ma si sa che questo, che l'accordatore ti fa perdere il segnale, quello è già putta. Che strano. Invece mettendo l'antenna diretta. Cosa è diretta, Fra? Ritorna a 9, vedi? Strano però. Le pazzie della frequenza. Quindi proverei a lasciarlo attaccato, dai. In onda. Però ti mangia il segnale, non capisco il perché. Accordando dovrebbe migliorare, non peggiorare. Perché stai facendo risuonare l'antenna, diciamo, meglio. Ma no, non è così. Perché le stazionarie te le toglie non in antenna, ma te le toglie dall'apparato, capito? L'antenna rimane sempre con le stazionarie. Ma no, insomma, no, non esisto. Io avrei pensato che accordando usciresti meglio, dovresti uscire meglio, invece no, non lo so. Vedremo prossimamente, dai, se cambierà qualcosa. Aspetta, ti riporto le repliche in ammanetta. Ti sente gente sotto che parla? Sì, lo sentite anch'io. Lo sentite anche io che stanno parlando. Io lo sento appena appena, magari tu sei più in alto, mi senti meglio. Cazzo sarà allora. Sì, ma è una cosa strana, Fra. Serve per metterlo fondo scala, tu vai fondo scala, poi rimetti a 100 watt, muovi la manopola per metterlo fondo scala e si abbassano le stazionarie, si abbassano a 1,1. dice una cosa che non va, è un accordatore. Cosa dice? No, lo sto accordando adesso, adesso spento l'accordatore. Capito? Sta funzionando male il rosmetro anche, ma non lo capisco. Ma è tutt'uno, no? Sì, c'ha due strumenti, no, c'ha il battimetro e il rosmetro dall'altra parte. Adesso per dire, sono spento, non ce l'ho, non sto usando l'accordatore, no? Praticamente non usando l'accordatore metto fondo scala, ti dà le stazionali e poi le abbassi con la mano con l'accordatore e dici abbassare sino a 1,1. Che strano, non lo so, perché prima non lo faceva? No, guarda adesso con garibo di segnale, secondo con garibo la seguisce sempre in luce. Adesso sei accordato, sei a 9. No, non sono accordato. Accordato sono così. Così accordato, guarda. E così scendi a 7. Cazzo, pure, te ne mangia due segnali, qui è un bemmi. Per me c'è un problema, poi. Però 9 da te è poco. Dovrebbe arrivare a 9,30 minimo. No, aspetta, io per vedere la differenza ti attengo, se no non vedo quei due segnali, non li vedo, capito? Quindi ti porto a 9, attenuandoti. Come invece se dici l'accordatore scendi di 2. Metti il segnale normale a vedere come arrivo. Qua infatti me li sto dando giusti, perché me li sto dando giusti. E anche il rosmetro adesso è 1,1. 9 più 30. E allora è così, dai, lasciamolo così e basta. Perché sicuramente c'è qualche problema al rosmetro. Si sta ammalando il rosmetro. C'hai anche il rosmetro sull'apparato? Aspetta, forse ce l'ho nell'altro apparato. Così vedi la prova, no? Se diciamo se i controlli sono gli stessi. Vengo, siamo vicini, eh? Ora te non puoi entrare finché te lo dico io. te che ti sposti e poi le faccio passare. Guarda, butti a terra qui prima delle 13, che la persona è dopo. Se c'è le 13 ti butti a destra, passano tutti. Io vado di là, devo controllare bene tutte le macchine.